Capitolo 42esimo. Elio. Elio, che Eurifessa dagli occhi bovini Ottia generò al titano Iperione, è un fratello di Selene e di Eos. Risvegliato dal canto del gallo che gli è sacro e preceduto da Eos, egli guida ogni giorno la sua quadriga attraverso i cieli, dallo splendido palazzo che sorge a oriente, nella Colchide, fino a un palazzo ugualmente splendido nell'estremo occidente, dove scioglie i cavalli e li lascia pascolare nelle isole dei Beati. Poi torna a oriente, percorrendo il fiume Oceano che scorre attorno al mondo, carica cocchio e cavalli su una nave dorata costruita da Efesto e dorme tutta la notte in una comoda cabina. Elio può vedere tutto quanto accade sulla terra, ma non è un acuto osservatore, non si accorse nemmeno che i compagni di Odisseo rubavano il bestiame a lui sacro. Egli possiede molte mandre, ciascuna composta di 150 capi. La mandria che si trova in Sicilia è custodita dalle figlie di Elio, Fetusa e Lampezia, ma gli animali più belli pascolano nell'isola spagnola di Erizia. Rodi è il suo dominio. Accade che, mentre Zeus assegnava isole e città ai vari dei, si scordasse di Elio. Accortosi della sua dimenticanza, esclamò: «Oimè, ora dovrò ricominciare tutto da capo». «No, mio signore», rispose Elio con cortesia, «oggi ho notato che una nuova isola sta emergendo dalle acque a sud dell'Asia Minore, e mi accontenterò di quella». Zeus chiamò la Moira Lachesia a testimone e promise che la nuova isola sarebbe appartenuta a Elio. E quando Rodi emerse dalle acque, Elio ne prese possesso e colà generò nella ninfa Roda 7 figli e 1 figlia. Taluni dicono che Rodi esisteva già in precedenza e riemerse dalle acque che l'avevano ricoperta al tempo del diluvio scatenato da Zeus. In origine era abitata dalle Telchine e Posidone. Innamoratosi di una Telchina, la ninfa Alia, ebbe da lei 6 figli e la figlia Roda. I 6 figli di Posidone insultarono Afrodite, che passava dall'isola mentre si recava da Citera a Pafo, e la dea li punì facendoli impazzire. Essi violentarono la madre loro e commisero altri misfatti tanto orrendi che Posidone li sprofondò sottoterra e divennero i demoni orientali. Le Telchine, prevedendo il diluvio, si misero in salvo salpando in ogni direzione e si stabilirono soprattutto in Licia, rinunciando al dominio su Rodi. Roda rimase così l'unica erede e i 7 figli che aveva avuto da Elio governarono sull'isola riemersa. Essi divennero famosi astronomi e la loro sorella Elettriona morì vergine e fu onorata come semidea. Uno dei fratelli di nome Attis fu bandito in seguito a un fratricidio e si rifugiò in Egitto, dove fondò la città di Eliopoli e, ispirato dal padre suo Elio, insegnò agli egiziani i principi dell'astrologia. I Rodi hanno ora costruito in suo onore il Colosso, alto 70 cubiti. Zeus ha aggiunto ai possedimenti di Elio anche l'isola di Sicilia, che fu scagliata in mare durante la battaglia con i giganti. Un mattino Elio cedette alle insistenze del suo figliolo Fetonte, che da tempo gli chiedeva di poter guidare il Cocchio del Sole. Fetonte voleva dar prova della sua abilità alle sorelle Prote e Climene, e sua madre Roda, il cui nome è incerto perché fu a volte chiamata anche col nome delle sue 2 figliole, lo incoraggiò all'impresa. Ma poiché gli mancava la forza necessaria per controllare lo slancio dei bianchi cavalli che le sue sorelle avevano aggiogato al carro, si lasciò trascinare dapprima così alto nel cielo che tutti i mortali rabbrividivano per il freddo e poi così vicino alla terra da inaridire i campi. Zeus, in un impeto di collera, lo annientò con la folgore e Fetonte precipitò nel Po. Le sue sorelle gementi furono trasformate nei pioppi che svettano lungo le rive del fiume e piangono lacrime d'ambra, o, secondo altri, i Ontani. La supremazia della luna sul sole, fino all'epoca in cui Apollo usurpò il trono di Elio, è una caratteristica molto interessante degli antichi miti greci. Elio non era nemmeno un Olimpio, ma soltanto un Titanide, e benché Zeus avesse in seguito assunto certe caratteristiche solari del dio Ittita e Corinzio Tesup e di altre divinità solari orientali, tali caratteristiche avevano ben poca importanza in confronto al suo dominio sul tuono e sulla folgore. Il numero dei capi di bestiame delle mandrie di Elio, l'Odissea lo chiama Iperione, ricorda il periodo in cui era sottoposto alla grande dea. Il numero corrisponde infatti a 12 lunazioni complete, come nell'anno di Numa, meno i 5 giorni sacri a Osiride, Iside, Set, Oro e Nefti. È anche un multiplo dei numeri lunari 50 e 7. Le cosiddette figlie di Elio sono in verità sacerdotesse della luna. Nell'antica mitologia europea, infatti, i bovini erano animali sacri alla luna più che al sole, e la madre di Elio, Eurifessa, dagli occhi bovini, è la luna stessa. L'allegoria del carro solare che percorre la volta celeste è tipicamente ellenica, ma il Nilsson, in Primitive Time Reckoning, ha dimostrato che persino nella Grecia classica i culti ancestrali dei clan erano regolati soltanto secondo la luna, come lo era d'altronde l'economia agricola in Beozia ai tempi di Esiodo. Un anello d'oro di Tirinto e un altro proveniente dall'acropoli di Micene provano che la dea controllava sia la luna sia il sole che splendono sopra la sua testa. Nella leggenda di Fetonte, che è un altro nome di Elio, una favola a sfondo morale è stata inserita sulla allegoria del cocchio per dimostrare che i padri non dovrebbero mai cedere alla volontà dei figli ascoltando i consigli delle donne. Questa favola, tuttavia, non è così semplice come pare a prima vista. Essa ha un'importanza mitica perché si riferisce al sacrificio annuale del principe reale, che si compiva nell'unico giorno che veniva calcolato come appartenente all'anno terrestre, ma non all'anno siderio, e cioè il giorno che seguiva quello più corto. Il re sacro fingeva di morire al tramonto. L'interrex, fanciullo, subito ne assumeva la carica e i titoli e sposava la regina, per poi venire ucciso 24 ore dopo. In Tracia era dilaniato dalle donne travestite da cavalle, mentre a Corinto o altrove moriva trascinato da un cocchio solare lanciato al galoppo. Il vecchio re allora emergeva dalla tomba dove si era nascosto e saliva al trono come successore del fanciullo. I miti di Glauco, di Pelope e di Ippolito, furia di cavalli, si riferiscono a questa usanza che pare sia stata portata a Babilonia dagli Ittiti. I pioppi neri erano sacri a Ecate, ma i pioppi bianchi erano una promessa di resurrezione. La metamorfosi delle sorelle di Fetonte in pioppi sta dunque a indicare un'isola funebre dove un collegio di sacerdotesse fungeva da oracolo per il re tribale. Anche la loro trasformazione in ontani ha lo stesso significato, perché gli ontani ombreggiavano Eea, gemente, l'isola funebre di Circe che sorgeva nell'Adriatico non lontano dalla foce del Po. Gli ontani erano sacri a Foroneo, l'eroe oracolare e inventore del fuoco. La valle del Po, nell'età del bronzo, era l'ultimo tratto della via dell'Ambra, sacra al sole, che correva dal Baltico al Mediterraneo. Rodi fu il dominio della dea lunare Danae, chiamata Camira, Ialisa e Linda, finché la dea non fu sopraffatta dal dio solare Ittita Tesup, venerato in forma di toro. Danae può essere identificata con Alia, del mare, Leucotea, dea bianca, ed Elettriona, Ambra. I sei figli e l'unica figlia di Posidone e i sette figli di Elio vogliono forse indicare una settimana di 7 giorni dominata dalle potenze planetarie, ossia i Titani. Attis non fondò Eliopoli, On o Aunis, una delle più antiche città dell'Egitto, e l'ipotesi che egli insegnasse l'astrologia agli egiziani è ridicola. Ma dopo la guerra troiana i Rodi furono per un certo periodo gli unici commercianti marittimi riconosciuti dai faraoni e pare avessero antichi rapporti religiosi con Eliopoli, centro del culto di Ra. Lo Zeus eliopolitano, sulla cui corazza spiccano i busti delle 7 potenze planetarie, può essere di ispirazione rodia, così come statue simili rinvenute a Tortosa in Spagna e a Biblo in Fenicia.